ragazzi del 99. Ritratto di una generazione a cavallo fra due secoli. Di Maria Piera Ceci. Li ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. Anche questa puntata dei ragazzi del 99 si apre con le parole del generale Diaz, che sono diventate un po' il filo conduttore di queste nostre chiacchierate con i ragazzi del 99, quelli che quest'anno compiono 18 anni e diventano in qualche modo grandi. Molto più fortunati i nostri ragazzi del 99, nati nel secolo scorso, ma che del secolo scorso hanno ben poco, ne hanno giusto sentito l'odore appena nati. Molto meno fortunati furono invece i loro illustri predecessori, quei giovani nati nel 1899 che furono mandati a morire sui campi di battaglia dove si consumò l'ultimo spicchio della prima guerra mondiale. Eppure ci piace immaginare che a prescindere dal secolo in cui nascono ci sono dei punti di contatto fra i diciottenni di ogni generazione, nelle loro passioni, nelle loro speranze, nel loro modo di guardare agli adulti, alla famiglia, alla società che sta loro intorno. E allora cerchiamoli questi punti di contatto anche oggi in questa puntata dei ragazzi del 99. E oggi siamo qui in compagnia con Davide Moi. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti. Allora, presentati tu. Di dove sei? Che scuola frequenti? Allora, io mi chiamo Davide Moi, appunto, ho 18 anni, frequento il liceo scientifico a Milano, ho appena terminato il quarto anno. E com'è andata? No, è andata bene. È andata bene, sì. Promosso? Sì, è bene. Buoni voti? Sì, sì. Quindi sei molto bravo. Che materie preferisci? Mi piacciono le materie scientifiche, quindi matematica, scienze e così via. Uh-huh. Partiamo proprio da qui, partiamo dalla tua scuola, perché insomma per tutti voi la scuola è un punto molto importante naturalmente della vostra vita. Una scuola privata, una scuola cattolica, come mai? Sì, è una scuola appunto privata e cattolica, perché fin da bambino ho sempre frequentato istituti paritari e quindi ci sono trovato bene nell'ambiente. E così anche in accordo con i miei genitori abbiamo deciso di proseguire così. Non ti viene voglia di buttarti, non ti è mai venuta voglia di buttarti in una scuola invece pubblica dove magari ci sono persone anche di altro genere? Beh, ovviamente un po' di curiosità c'è nel pensare a ambienti diversi, comunque differenti da quello in cui sei cresciuto e sei abituato, però penso comunque dopo 4 anni di liceo di aver fatto la scelta giusta. Quindi hai altri momenti magari per uscire, per, sì, per incontrare persone fuori dalla tua scuola? I professori? Un professore che mi piace particolarmente è il mio professore di storia e filosofia, che oltre a essere secondo me molto bravo nello spiegare le sue materie, ci aiuta anche sotto altri aspetti, anche so parlare del nostro futuro, anche vicende di interesse generale a livello mondiale, quindi non solo legate all'ambito scolastico, che secondo me è una cosa vi fa che riflettere su quello che accade anche fuori dalla vostra scuola, insomma. Sì, assolutamente. Una cosa secondo me importante per non rimanere chiusi appunto solamente nell'ambito scolastico. Sicuramente abbiamo un bel rapporto, quello è un bel rapporto. E se invece tu potessi cambiare qualcosa della tua scuola e della scuola in generale, se tu fossi il ministro, per dire, dell'istruzione, cos'è che non ti piace di questa scuola? Beh, ci sono qualche professore che diciamo è lì da molto tempo e si crede un po' il sovrano dell'istituto, crede di poter fare il bello e il cattivo tempo. Non ovviamente che non si possa rimanere per più anni nella stessa scuola, però quando si perde quella carica, sì, no? Comunicativa anche con i ragazzi, non ci sono, sì, più tanti punti di contatto. Sì, non hanno più diciamo il massimo spunto e interesse nel gestire le relazioni con i ragazzi, quindi sicuramente un aspetto che si potrebbe migliorare, quindi poi dipende anche dalla persona. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world. Good time, having a good time. I Queen, scelti per noi da Davide, il nostro ragazzo del 99 di oggi. Tu come li conosci, Queen? Non sono musica della tua generazione? Sì, in effetti sono un po'... non li ho potuti vivere in prima persona, però ovviamente è un gruppo ovviamente molto famoso, andato che sul classico, e apprezzo comunque molto la loro musica. Ho avuto modo ovviamente di sentirli e seguirli a mio modo, ovviamente. Ma l'hai scoperti da solo o sono stati i tuoi genitori? No, l'hai scoperti da solo. Ok. Quanta importanza ha la musica nella tua vita? Beh, allora, non sono un grandissimo appassionato, però sicuramente, soprattutto negli ultimi anni, mi sta aiutando anche come momento di relax, di svago, per staccare un po' magari da studio. Studio e lavoro. Studio e lavoro, sì. Senti, cosa fai il sabato sera? Il sabato sera esco con gli amici in genere, sì. Che fate di bello? Ma o andiamo al cinema o... andiamo, diciamo, nei luoghi abbastanza classici di Milano, come Corso Como, Gaia Volenti o i Navigli. E hai tanti amici? C'è una componente importante questa nella tua vita, oppure sei uno che seleziona molto? Sì, diciamo che ci sono qualche gruppo, in genere più sulla qualità che al numero. Però comunque sì, preferisci le relazioni, quindi singole, diciamo, più che il gruppone. Sì. Uh-huh. E a che ora devi rientrare il sabato sera? Ma tra mezzanotte e mezza, sì. Ma l'hai scelto tu o sono i tuoi genitori che ti impongono questo orario? Beh, allora non mi hanno mai imposto direttamente questo orario, ma capisco appunto che anche per loro sia l'orario più corretto. Perché ti aspettano svegli? Sì, in genere sì, quindi anche per non farli andare troppo tardi. Quindi insomma non ti hanno ancora mollato, nonostante tu sia diciottenne, ormai maggiorenne, sono ancora lì che ti aspettano. Quanti messaggini ti manda la tua mamma? Quando esco parecchi, non sempre gli rispondo, o comunque lo faccio con monosillabi. Un po' scocciato ovviamente. Sì, mm-hmm. Che cos'è che ti dà più fastidio dei tuoi genitori? Ti stanno molto addosso? Ti lasciano fare le tue esperienze? Com'è con la tua famiglia? No, beh, allora con i miei genitori ho un ottimo rapporto, mi trovo bene. Sicuramente quello che ogni tanto mi dà un po' più fastidio è quando, diciamo, vogliono sapere... fare troppe domande, indagano secondo me un po' troppo su quello che faccio, che poi ovviamente non ho niente da nascondere, però non mi sento neanche di dovere dire qualsiasi cosa. Senti, sei figlio unico? No, un fratello. Un fratello più grande di 5 anni. E come va? No, ma anche lui è molto bravo, adesso studia all'università, fa farmacia, è un buon rapporto con lui. Senti, cos'è che con la tua famiglia riescono a farti fare le scelte da solo, oppure ancora vogliono un po' intromettersi, guidarti, spiegarti, raccontarti di com'è stato per loro, eccetera? Sì, sicuramente ti lasciano sbagliare ogni tanto? Sì, mi raccontano molto, mi danno dei suggerimenti, ma poi alla fine le decisioni fortunatamente le lasciano a me. Sinceramente, quando sento anche altri miei compagni invece con i genitori che influenzano molto e sostanzialmente decidono per loro, è una cosa che un po' appunto mi dà fastidio per loro, perché comunque rischiano, i genitori, per quanto ti possano conoscere bene, non sono nella tua testa, quindi rischiano poi di portarti in situazioni che magari avresti evitato, comunque non ti rendono pienamente felice. E qual è il valore secondo te che i tuoi genitori, il valore più importante che i tuoi genitori ti stanno comunicando e che magari porterai dentro tutta la vita, anche quando poi un giorno sarai a casa tua con la tua famiglia? Ma è sicuramente una certa educazione da tenere in qualunque situazione, anche il valore dello studio, di comunque essere preparati e non dare nulla per scontato. Mi vuoi dire tu quali sono i tuoi libri preferiti? Allora, a me piace molto il genere giallo, diciamo che il più grande esponente possiamo dire che sia Sherlock Holmes, in particolare ho scelto Il mastino di Baskerville. Sono sicuro, Holmes, che l'avrà già esaminato a dovere. Non sbaglia, amico mio. Ma non credo ci sarà bisogno di perdere troppo tempo. Ad ogni modo, posso dire con certezza che il nostro uomo possiede un cane. E da cosa l'ha dedotto? Beh, per il semplice motivo che vedo il cane in carne ed ossa davanti alla nostra porta, mentre il padrone sta per suonare il campanello. Elementare, Watson. Poi un altro libro che mi piace molto, che non c'entra molto con il genere giallo, è Il buio oltre la siepe, che ho letto anche in lingua originale, quindi in inglese. È un libro appunto molto famoso e secondo me molto bello, che tratta il tema del razzismo anche in maniera poco scontata rispetto anche a quanto si vede in altri libri o film. Ti piace molto leggere o leggi solo le cose che ti danno a scuola da leggere? No, beh, ogni tanto leggo qualche libro anche di mia iniziativa, non è il mio primario passatempo, ma sicuramente quando un libro mi piace lo finisco. Ce la fai a finirlo. Sì. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. Made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the In che cosa sei un campione? Sono sicuramente molto determinato, quindi quando prendo una decisione, inizio qualcosa, mi piace sicuramente portarla a termine. E invece se potessi cambiare qualcosa di te, qualcosa che non ti piace, su cui stai lavorando o vorresti lavorare? Sicuramente ho una grande consapevolezza delle mie capacità, che a volte forse va un po' troppo oltre. Magari a volte dovrei essere più paziente, secondo me. Ci fermiamo per qualche istante. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. I ragazzi del 99. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Note di questa bella canzone dei Green Day, torniamo in compagnia di Davide Mo, il nostro ragazzo del 99 che vogliamo raccontarvi oggi. Ultimo viaggio fatto, Davide? Allora, l'ultimo viaggio che ho fatto è stato in gita scolastica e siamo andati a Londra. ti piace viaggiare oppure non è una priorità per te? No, mi piace molto viaggiare, mi piace molto, infatti ogni estate cerco di organizzare con la mia famiglia un viaggio, ne ho fatti parecchi fortunatamente, ho avuto la fortuna anche di andare in America, New York. I tuoi genitori ti portano, quindi ancora non viaggi da solo? No, per ora no, poi nei prossimi anni se ne riparlerà. Però... Mm-hmm. E c'è qualche paese che ti ha colpito particolarmente in questi tuoi viaggi? Beh, allora, come ho detto, gli Stati Uniti sono comunque sempre nel contesto dei paesi occidentali, una realtà che ha alcuni aspetti molto differenti rispetto all'Europa. C'è un'integrazione di tantissime culture a cui noi dobbiamo ancora arrivare, mentre un altro paese... Questa cosa ti ha colpito? Assolutamente, mentre un altro paese che mi è piaciuto molto visitare è stata la Tunisia, che sono riuscito fortunatamente a farlo prima appunto dei recenti attentati. Mm-hmm. E mi aveva colpito molto anche l'apertura dei locali. Spesso anche c'è parecchio pregiudizio su nordafricani in genere, quelle popolazioni invece secondo me hanno, poi ovviamente ho visitato solo una parte della Tunisia, ma secondo me hanno dimostrato anche grande apertura, grande legame con che non ti aspettavi, che non ti aspettavi. Questa cosa degli attentati che citavi sta in qualche modo condizionando anche un po' il tuo modo di viaggiare o il tuo modo di pensarti in viaggio? Ti sta frenando oppure, come dire, ormai ci siamo anche quasi abituati a questo modo di viaggiare con un po' di paura? Sì, purtroppo penso che recentemente ci sia un clima di che è più disteso rispetto agli attentati, perché ci stiamo facendo l'abitudine. Personalmente ci rifletto su anche la possibilità di incappare in questi eventi anche quando stai facendo qualcosa molto tranquillo, come andando in metro, anche visitando qualche monumento, anche molto a un famoso, concerto, quindi così insomma via. È certo, però sinceramente non penso che questo mi stia limitando. Comunque ovviamente c'è sempre pensiero, ma avere paura poi di viaggiare, di uscire di casa, sarebbe fare il loro gioco. Film preferito: Le ali della libertà con Morgan Freeman. Un bellissimo film, ti ringrazio per averlo scelto per noi. Si parla di un'ingiustizia, no? In questo film è un po' il tema, con un bravissimo Morgan Freeman. Cos'è che ti ha colpito? È questo il tema che ti è piaciuto particolarmente? Sì, è un film appunto molto bello che mi ha colpito molto quando l'avevo visto. Innanzitutto c'è appunto il tema dell'ingiustizia, ma è interessante vedere come il protagonista, interpretato da Tim Robbins, l'affronti, come a un certo punto se ne riesca a fare una ragione, ma al tempo stesso mantenga sempre un desiderio fortissimo di libertà. Mi è piaciuto anche il tema un po' centrale anch'esso nel film, di avere sempre la speranza per il futuro, anche quando sembra impossibile. Infatti il protagonista, venendo incastrato in un omicidio, riceve due ergastoli, ma comunque lui continua a credere al suo sogno di libertà e riesce a raggiungerlo. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto, né a concentrarmi su qualcosa. Credo che sia l'emozione che solo un uomo libero può provare. Un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringergli la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni. Spero. Parlavamo di ingiustizia, no? Perché questo film parla di un'ingiustizia, perché lui in realtà è innocente. Tu vedi molte ingiustizie nella società in cui vivi, oppure secondo te in realtà tutto funziona abbastanza bene? Beh, ovviamente si potrebbe migliorare in tanti aspetti. Tu come ti informi, Davide? Leggi i giornali, ascolti la radio oppure la rete? Allora, in genere leggo ogni giorno un giornale. E lo poi compri tu o lo trovi in famiglia? Lo trovo in famiglia. Uh-huh. E poi vabbè, uso molto la rete. Ti informi su alcuni siti di informazione oppure insomma Facebook, i social? Che importanza hanno i social per te, per esempio? Beh, allora, sicuramente negli ultimi anni stanno diventando, inutile nasconderlo, molto importanti. Per informarmi uso sia i social, ma anche siti di informazione specifici, perché poi sappiamo che in un social network le notizie poi finiscono anche un po' per disperdersi, modificarsi. Non sono verificate, non sai mai se sono vere, cioè questa cosa ce l'hai ben in mente, sì, che insomma quello prendere... che gira è sempre un po', no, da verificare. Sì, da prendere con le pinze. Tutto. Su quanti social sei presente tu? No, non su molti, io ho Facebook e poi WhatsApp. Ah, vabbè, poca roba. Sì. Telefono è importante per te? Negli ultimi anni lo sta diventando. Ogni tanto me lo dimentico ancora in giro per casa e sto qualche ora senza. Quindi però... riesci a stare qualche ora senza qualche il tuo ora, telefono? Sì, sì. La politica, a questo punto ti toccherà votare, quando si andrà a votare, se si andrà presto a votare, ti interessa oppure è ancora molto lontana come tema per te? Sì, negli ultimi tempi mi sto interessando, appunto considerando il fatto che appunto da quest'anno potrò votare, è sicuramente un aspetto che reputo abbastanza interessante, anche molto, essendo anche molto presente nell'informazione. In Italia. Come ti sembra, avvicinandoti alla politica, la nostra classe politica? Beh, ovviamente riguardo a questo tema c'è sempre molto pregiudizio, lo stereotipo dei politici come disonesti, ma credo che alla fine ci sia qualche figura adatta a governare un paese, e poi chi più chi meno, alla fine il politico tenta sempre di risultare il più onesto possibile e portare i voti, il consenso dalla sua parte, ma diciamo ho più fiducia che in passato. E sei mai stato ad una manifestazione? No, per ora no. Ecco la mia auto. È una Fiat Coupé. L'ho pagata 900 sterline, cioè 1000 euro. Con i soldi necessari per un'Astra nuova, la polizia potrebbe comprare 10 di queste. Serie TV preferita Top Gear. Ti piacciono le auto? Sì, mi piace molto l'automobilismo, seguo anche la Formula 1, in particolare una serie TV di origine britannica che secondo me appunto unisce in maniera perfetta l'intrattenimento poi a quello che è il mondo appunto automobilistico. Ma la guardi molto la TV, e se la guardi, guardi quella tradizionale oppure Netflix? Allora, negli ultimi tempi ovviamente la sto guardando un po' di meno, in genere però sì, quella tradizionale. Tra un po' dovrai decidere cosa fare del tuo futuro. Intanto ti fa un po' paura questo futuro, perché insomma ogni giorno, no, si sentono notizie dei ragazzi non trovano lavoro, un'alta disoccupazione, giovani che non hanno futuro, giovani che devono andare all'estero perché non trovano nulla qui. Ti preoccupa questa cosa? Ne parli con i tuoi coetanei o sei ottimista? Beh, allora, sicuramente il tema della disoccupazione giovanile è un tema che comunque terrò a mente anche nel scegliere il mio percorso futuro, però sinceramente non sono troppo preoccupato, perché credo che per chi si impegna, per chi ha bene in mente cosa fare e soprattutto riesce a fare qualcosa che gli piace, le opportunità ci sono e si possono trovare e sfruttare. Tu sei molto fortunato perché stai già facendo un'esperienza di lavoro. La tua scuola ti ha fornito questa occasione. Che cosa stai facendo? Ce lo racconti? Allora sì, io da quest'anno sto lavorando con un contratto di apprendistato part-time in Allianz Italia, e sono stato scelto appunto tra 30 ragazzi a Milano per prendere parte a questo progetto nato dall'introduzione della dualità scuola-lavoro obbligatoria anche per i licei. È un percorso che mi sta risultando molto utile riguardo all'orientamento per il mio percorso futuro. Ti ha chiarito un po' le idee? Sì, infatti io lavoro in particolare negli investimenti finanziari e appunto sto apprezzando molto quello che è la materia, infatti penso di proseguire gli studi in economia. Che cosa hai fatto con il tuo primo stipendio? E l'ho usato per togliermi qualche soddisfazione, ho comprato qualche vestito anche per l'ufficio appunto, ma anche qualche soddisfazione, qualche accessorio elettronico. Ti vedi fra 10 anni a Milano, all'estero, dove ti vedi? Sinceramente non lo so, è difficile fare previsioni così lontane. Non mi preoccupa anche dover eventualmente andare all'estero, Chi è il personaggio, la persona che ammiri di più? Allora, un personaggio che ammiro molto è Jonathan Ive, che è il più grande designer della Apple. Cos'è che ti piace di questo personaggio? Io me lo sono andata a guardare, non lo conoscevo, ti ringrazio per avermelo fatto conoscere. Cos'è che ti piace di questo personaggio? Quello che ha disegnato o il suo modo di vivere in qualche modo? Beh, sicuramente è un personaggio che per la sua importanza nell'azienda sicuramente è restato sempre in secondo piano. Infatti appunto non è conosciuto particolarmente al grande pubblico, a differenza di quanto era Steve Jobs o Tim Cook adesso. Però penso che appunto il suo ruolo sia stato alla base dell'enorme successo della Apple. Infatti ha introdotto sempre tecnologie innovative, comunque le ha diffuse, però grande merito è stato al design dei loro prodotti, che appunto ha portato... Fai parte della tribù degli amanti della Apple, mi sembra, sì, di capire. Sì, esattamente. Senti, tu lo sai chi erano i ragazzi del 99? Sì, erano dei ragazzi che hanno partecipato alla prima guerra mondiale con esiti, purtroppo per loro, comunque molto spesso tragici. Lo sapevi o ti sei informato? No, lo sapevo. Grazie a Davide Moi per averci fatto compagnia, per averci raccontato molto di sé, perché hai parlato insomma tanto. Grazie Davide. Grazie a voi. Grazie a Paolo Corleoni in regia. Si ferma qui questa puntata dei Ragazzi del 99. Un saluto da Maria Piera Ceci. Voglio che l'esercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno dimostrato d'essere degni del retaggio di gloria che su essi discese.